YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Accetta, sì, cerca di fare dal gran finale, spera, sì, spera, sì. Comunque vada a Pantarei e segni di me. Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione in ciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Vabbè, ormai tutte le settimane partiamo con occidentali scarma. Ciao Daniele! Ciao Marta, cambiamo sigla praticamente. No, sì ragazzi, ci stiamo avvicinando. Però, no, lo devo dire agli ascoltatori. Dillo. Per la prima volta in 4 anni io e Daniele non siamo nello stesso studio. No. Perché è in diretta dagli studi di Roma. Quindi io lo vedo nella webcam piccolino. Ciao. E lui mi fa ciao e lo vedo, ma lui non vede me. Che strano, siamo lontani eppure vicini. Secondo me ti piace di più così. Ma lontani. Mi piace molto, anche perché qua c'è quella cosa, sai, che si vedeva nei film da piccoli. Qua c'è la scritta on air con il rosso. Sai quando nei film in cui il vero conduttore radiofonico molto, mi sento molto molto importante. Sì, comunque. Senti, ho capito una cosa del successo di questa canzone. Ah, raccontami. Il modo in cui Gabbani dice amletico. È vero, tu lì ogni quando senti amletico, il dubbio amletico. E poi, a proposito dei selfisti anonimi, volevo dirti che devi iniziare a preoccuparti, perché ho scoperto nel giro... L'hai letto anche tu questa cosa della sindrome? No, dimmi, no, io volevo dirti un'altra cosa. No, dimmi tu, perché poi ti dico la mia di sindrome. No, che ho scoperto che esiste il braccio del selfista. Cioè? Eh sì, praticamente, allora, dicono che sia una nuova malattia, tipo, te lo ricordi i 3 uomini in barca, il gomito del tennista, il ginocchio della lavandaia? Ah, esatto, sì. E adesso c'è il braccio del selfista, adesso non so bene come sia, clinicamente. Cioè, perché a furia di tenere il braccio lontano per entrare in due, tutte queste cose? Non lo so, io lo chiederei a dottor Bellasio, che non è lui ma suo padre, e chiediamo se per caso se è vero che c'è il gomito del selfista. Ma sì, sarà de... Senti, tipo, ma... perché tipo tenere la racchetta, ma non lo so, secondo me è una scemenza di quelle da colonnino destro. No, secondo me sarà anche vero. No, invece io mi sto facendo prendere da altre 2 sindrome e per di più assieme contemporaneamente. Cioè, ho paura, quali? No, te lo dico facile, facile. Ho scoperto 2 cose drammatiche e simpatiche contemporaneamente. La prima sono le iconcine. E la seconda sono le GIF. Cioè, non è che ho scoperto GIF immancabili. Okay. No, non è che ho scoperto che esistono. Sapevo già che esistevano, ma ho scoperto come metterle. Ho scoperto quando te le propongono in automatico. Mm-hmm. E quindi adesso praticamente non riesco più a fare un tweet senza una GIF o GIF, o a mandare un messaggio senza una iconcina, che poi mi dicono che si debba dire emoticon, no? Ah, cioè hai scoperto adesso gli emoji? Io no, emoji addirittura il terzo modo, no, per io dire. Ho un amico, Andrea, sì? Conti, che tra l'altro, vabbè, lavora in RTL, ma fa niente. Ciao Andrea. Lui, ma tu si parli esprime... sempre delle altre radio. Ma no, ma sono miei amici. Allora, sì. Lui si esprime solo con GIF di Mara Maionchi. Ah, lui invece ne ha usata una non sappiamo dove le va a prendere. Sì. E ogni volta che tu gli rispondi qualcosa, lui solo con le GIF di Mara Maionchi. Ma vabbè, ci sarà impazziamo. Il generatore automatico di GIF o GIF di Mara Maionchi. Esatto, volevo fare comunque un generatore automatico di GIF mie. Sì, di saluti che ti faccio dalla telecamera. Esatto. No, volevo dire, meno male che parli di altre radio, ma come siti parli solo del nostro, per fortuna. No, allora ti dirò di più. Adesso a volte faccio delle cose solo per il tuo sito, per il ma vostro sito. Ma lo so, non cioè, lo sapessi, dico, ma lo so. Ad esempio, il prossimo vincitore di Escita, non dirlo, aspetta, che qua ci sono delle parti di plastica e delle parti di metallo. Sì. Fatemi toccare subito il metallo. Non fatemi dire nulla, che siamo in fascia protetta. Esatto, allora, la prossima settimana, perché siamo partiti da Gabbani? Perché la prossima settimana settimana come adesso io sarò lì in un'angoscia tremenda per la finale dell'Eurovision Song Contest, quella che Gabbani ha praticamente già vinto dopo aver vinto anche il primo maggio, dove è stato bravissimo. Esatto, l'abbiamo sentito, ha proprio conquistato. Allora, poi parliamo con il nostro esperto, capiamo un po' come sta andando a Kiev, perché lui è già andato, anche Gabbani l'altro ieri è arrivato a Kiev. Ma prima tu l'hai intervistato. Io l'ho intervistato e l'ho intervistato per il sito del Sole 24 Ore. Senti cosa ci ha detto, così, di questa attesa, di questa paura e soprattutto del fatto che, insomma, di solito si teme che chi entra papa esca cardinale. Lui ha detto così. Diciamo che quello che penso è il fatto che dovrei riuscire a non pensarci a questa cosa, nel senso che preferisco anzi potermi vivere l'Eurovision come una bella avventura. Vediamo cosa succederà. Da una parte i pronostici mi danno, come posso dire, un entusiasmo maggiore, però non voglio che mi illudano, ecco, perché se poi non dovessi vincere, insomma, la delusione sarebbe, insomma, grande. Comunque vada Pantarei. Comunque vada Pantarei, assolutamente. Allora, non fatemi ci pensare perché mi illudo, ha ragione, se no non ti diverti, perché fondamentalmente no, scherzo, devi anche divertirti. Poi lui è così, cioè... Sì, Magellano, il nuovo disco. Bello, mi piace come titolo, molto bello. Bello come titolo, anche poi ci sono anche un sacco di brani molto belli, ce ne sono due di quali sono già assolutamente pazza. Allora, sì. No, ma dai, ma c'è un altro, prima di passare a Escita, come lo chiami tu, Escita. No, come lo chiamo io, lo chiamate voi quando mettete l'hashtag, no? Vabbè, poi spieghiamo bene, anche perché poi ormai in tutti questi anni Daniele Bellasio ha imparato tutto sull'Eurovision. Sì, per osmosi, diciamo. Esatto, ma tra poco approfondiremo il contenuto. No, l'unica cosa che non ho imparato è il sistema di voto, che è peggio della legge elettorale in discussione ora alla Camera. Allora, cioè poi, una roba, poi te lo spiega il nostro esperto. No, te lo spiega il nostro esperto con un'analogia sportiva. Vedrai che con l'analogia sportiva si capisce. E dici sport perché tu vuoi parlare di? Dillo. Ma mi hanno detto che è successo qualcosa di molto succoso questa settimana a Tiki Taka. Io l'ho sentito da Cruciani, Parenzo. Perché io non l'ho visto dal vivo quella sera lì, e la trasmissione non l'ho vista. Ho visto che però su tutti i siti il nostro Pierluigi Pardo ha fatto un... Che ha ragione, vi dico già che ha ragione. Allora, prima facciamo che così, l'audio. Facciamo così, guardiamolo video. Insieme alla radio e poi decidiamo chi ha ragione. Okay. Ci sono i poveri a Montecarlo, come si vive a Montecarlo? Adesso non vorrei fare un passaggio un po' troppo proloco, però com'è la vita nel Principato? Perché insomma è un luogo particolare, suggestivo. È un luogo dove uno che ha le possibilità può viverci tranquillamente, bisogna avere le possibilità come in tutte le cose. Tutte queste robe qui, ricchi, poveri, sono tutte cazzate che ogni volta tirate fuori. Intanto cominciate a guadagnare per potervi permettere Monte Carlo. E non rompete sempre i maroni con queste robe qui, perché io prendo, alzo e me ne vado, perché non ha nessun senso. Noi poveri, ricchi, ma cosa vuol dire? Ma siamo ancora lì? Ma siamo degli ignoranti, proprio siamo dei rancorosi. Parlate, guardate, cercare i poveri, non ci sono. A Monte Carlo, poveri, non ci sono. Vabbè, è positivo. Ma non era neanche un ricordo, attacco a lei. Non li fanno neanche. Però fare. È evidente che stiamo parlando della città più probabilmente più per la immagine che ha Monte Carlo. L'immagine a Monte Carlo. Quello. Briatore, ho sentito che le piace molto l'idea di Balotelli al Napoli, che gli consiglierebbe questo tipo di esperienza in un'intervista su Premium proprio di qualche ora fa. Nizza è a pochi chilometri. Pensare. Parla con qualcun altro, chiamami fra 5 minuti. Va bene, allora ci sentiamo fra 5 minuti. Ah, si era arrabbiato per la vita. Allora, a me spiace perché Briatore mi sta super simpatico. Allora, facciamo così: io comincio a lavorare, così posso permettermi di andare a Monte Carlo. No, sì, però mi viene un po' Brianzola, perché io sono Brianzola. A parte che non era una domanda rancorosa. Ma no, ma appunto, anzi era abbastanza ironica. Ha fatto la battuta proloco, ma poi scusa, ma ha scritto un libro sulla ricchezza, parla sempre di argomenti di questo tipo. No, secondo me era nervoso per altro e gli è scattato. Sì, anche secondo me, perché poi lui veramente Briatore è simpatico, non lo so, forse si è sentito attaccato e non lo era. Figuriamoci, non lo so. Ma sì, appunto, figuriamoci se Pardo aveva intenzione di farlo sembrare diverso da quello che Briatore è. Briatore è così, parla di queste cose giustamente, ma non so, non si capisce. Allora facciamo una cosa, è una forma di moralismo al contrario che non mi diverte. Daniele, facciamo una breve pausa, anche perché così comincio a pensare brevissima, a come lavorare, perché per come, il come? Momento con il mio stipendio Monte Carlo è non è proprio delle gite in giornata. Ma sì, anche col panino e la schiscetta. Esatto, delle gite in giornata, dai. Traffico, vai. Resta lì nella redazione romana. Ma chi si muove? Guarda, bellissimo. Ah, grande, un tavolo enorme. Vabbè, te lo dovrai litigare con Parenzo quando è a Roma. Va bene, va bene. Allora, tra poco, traffico e poi ci siamo. Radio Tube. Ciao a tutti. Allora, è arrivato il fatidico momento della partenza per Kiev. Siamo nel tunnel d'imbarco a Malpensa con tutta, direi, la ciurma del vascello di Magellano. Veniamo alla conquista del, speriamo, dell'Europa. E niente, io insomma vi volevo salutare e dirvi che vi terrò aggiornati con una sorta di diario di bordo di questa avventura dell'Eurovision Song Contest. È difficilissimo da dire, io credo che la competizione sia quella, cioè riuscire a dirlo bene. E oh, che Dio ce la mandi buona, vi mando tanti baci e mi raccomando, supportateci. Ciao. Lezioni di Nirvana, c'è Butterfield Indiana per tutti un'ora. E allora siamo pronti, lo abbiamo sentito, si è fatto anche lui un video selfie, avrà anche lui la sindrome del gomito da selfie, ha fatto un video selfie mentre partiva da Malpensa verso Kiev. Allora anche noi ci trasferiamo a Kiev per sapere cosa sta succedendo, che umori ci sono. Daniele, ovviamente abbiamo il nostro super esperto che è anche il vice capo delegazione a Kiev, cioè non è che ne prendiamo un ruolo a caso. Certo, poi tra l'altro lui è bravissimo, veramente siamo tutti nelle mani sue. Super Eddy? È il super Eddy, Eddy Anselmi, ciao Eddy! Ciao Marta, ciao Daniele, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Tube. Allora, senti, dimmi subito, allora, no, per favore, dimmi subito che tempo fa e come si sta a Kiev, perché devo fare la valigia. Beh, devo fare la valigia domani. Beh, è un tempo primaverile, i figli sono in fiore, l'unico problema per ora è per chi è allergico, i pollini sono nella tua devo pieno portare fulgore. Allora, aspetta, segnare post-it. Fai come Parenzo che scrive. Amico, ok, ok. Antistaminico. Segnale. Però è una bella primavera. Probabilmente le temperature sono in lieve discesa. Però la sera è freschino, di giorno è definitivamente caldo. E quanto è caldo per Gabbani il clima da quelle parti? Beh, diciamo che ieri quando siamo arrivati in aeroporto è stato veramente come l'arrivo di un capo di stato. Madonna, no. Arriva l'Eurovision, Robbie Williams. C'erano cinque telecamere, la stampa ucraina, una serie di microfoni, uno spiegamento di sicurezza, abbiamo dovuto lasciare l'aeroporto scortati dalla polizia. Addirittura? Perché, sì, perché c'era veramente l'assalto della stampa locale a quello che sembra il super favorito della vigilia. Io lo dico piano, però insomma credo che raramente ne abbiamo avuto un tale riscontro, insomma, anche all'anno scorso, due anni fa eravamo tanto forti, diciamo due anni fa non eravamo gli unici tanto forti, infatti siamo arrivati terzi. Col volo, ricordiamo, sì. Sembra che la concorrenza sia regolabile con relativa facilità. Io lo dico piano perché è comunque una gara, comincia oggi con le prime prove, ci sono due performance, c'è una performance da mettere a posto, c'è una canzone da cantare, c'è un televoto da conquistare, delle giurie da convincere che la nostra canzone non è solo il balletto del gorilla, ma è anche un significato raramente ascoltato sul palco dell'Eurovision. Cantiamo in italiano, questa è la sfida più grossa, abbiamo alzato l'ostacolo. Eddy, visto che Daniele prima della pausa ha espresso ancora delle incertezze sulle modalità di valutazione, cioè lui le votazioni non le ha ancora capite, come spiegaglielo, si vota. Come fai tu con l'esempio sportivo, perché quando il parli di sport capiscono. Allora, beh, le votazioni diciamo che è come un gran premio di Formula 1, ovvero non importa se tu vinci con tre giri di distacco o se tu vinci in volata, se arrivi primo prendi quei punti, se arrivi secondo prendi quei punti. È come se ci fossero tanti gran premi per paese, quindi se uno in Svezia vince con 1 milione di voti e magari in Austria vince con 1 punto di distacco, comunque si prende 12 punti dalla Svezia e 12 punti dall'Austria, il secondo ne prenderà sempre 10. La cosa quest'anno è un po' diversa da come funzionava tradizionalmente, perché i punti, ogni paese assegna un massimo dei 24 punti alla sua canzone preferita, quindi perché la giuria ne assegna 12 e il televoto ne assegna 12, quindi il massimo che uno può prendere da un singolo paese non è più 12 ma 24. Allora, ogni paese può votare anche la canzone che lo rappresenta? Assolutamente no, è vietato votare per la canzone del proprio paese, i nostri televotanti non potranno votare, perché si suppone che ogni paese premierebbe la sua canzone. Bello, questo quindi... è bello, questo è il bello della gara, lo spirito comunitario, anche bello. Diciamo che da un lato questo incentiva appunto il fatto di valutare le canzoni degli altri, dall'altro questo apre un secondo fronte che talvolta è stato causa di polemica, perché i paesi con le diaspore più forti, con le comunità più organizzate, riescono facilmente a essere molto forti al televoto. Cioè, per dire, in Italia di solito che paesi si impongono al televoto? Normalmente il televoto lo vincono Romania e Albania. Ah, ok, capito. Certo, ecco, cioè certo. Ci sono delle comunità molto forti. Diciamo molto organizzato, noi italiani all'estero siamo tanti, però siamo o comunità molto giovani che non hanno quel senso di appartenenza che possono avere, potevamo avere una volta, o comunità molto anziane dove già ci sono le seconde generazioni e quindi non seguono più l'Italia all'Eurovision, magari lo seguono al calcio, magari tifano per le squadre italiane, ma non si riuniscono per votare l'Italia quando passa all'Eurovision. Magari chissà, questa tendenza cambia, perché per esempio con il volo è cambiata. Però certo, poi era una musica forse più che portava alcuni, sì. No, ma anche alcune cose un po' più classiche, sì, ecco, dell'inizio, sì, del Novecento, sì. Per essere Daniele, gentili, diciamo. Altri dubbi? No. Altri dubbi. No, due dubbi rapidissimi. Il primo è questo. Poi a volte, anche per ragioni così culturali, geopolitici, c'è molto il voto contro, cioè si fa quasi la classifica a seconda dei paesi perché tu non vuoi che vinca il cantante di quell'altro paese. Ci sono stati in passato anche delle polemiche. E l'altro dubbio è il fatto che la canzone di Gabbani sia già così famosa in tutta Europa. È un pro o un contro? Allora, il primo, ti rispondo alla prima domanda. Il voto contro si è visto in particolare per quanto riguarda un paese controverso, che è stata la Russia. L'anno scorso alcuni giurati qua e là hanno messo ultima la Russia, penalizzandola in tutta la giuria, forse oltre ai demeriti che poteva avere il pezzo, era molto over the top, poteva non piacere, poteva risultare costruito, secondo me obiettivamente non sarebbe stato da ultimo posto. Qualcuno, in particolare certe giurie di alcuni paesi, la Repubblica Ceca, la Lituania, un giurato italiano ha espresso una valutazione molto, molto negativa, probabilmente dettata dal fatto anche che la Russia era strafavorita e quindi si voleva un po' azzoppare la persona che sembrava in fuga. Può succedere, normalmente non succede, succede il voto a favore, ma è normale. Il ragazzino bielorusso vede magari la televisione ucraina per satellite, conosce il gruppo rock ucraino che è in gara e quindi lo riconosce. I paesi nordici tra di loro si supportano. Quando un norvegese non è in finale, è felice se vince la Svezia, perché comunque c'è un senso di affinità. Nel Mediterraneo non l'abbiamo forse questo senso di affinità verso i nostri vicini francesi e spagnoli, però qualche cosa magari cambia. Se noi abbiamo una rivalità forte con Francia e Spagna, anche dettata dal calcio, però per esempio Malta, se non vince Malta ma vince l'Italia, è felice, proprio a livello anche di supporto. Malta è abituata a tifare Italia ai mondiali di calcio, quindi... Ah certo, peraltro la cantante maltese ha un nome italiano, molto italiano. Per parte di parte di padre e di madre, sia di origine siciliana. Daniele ha paura che la gente si sia già un po' stancata anche in tutta Europa. Sì. In genere quando una canzone parte così famosa e favorita non stanca. I due mesi di anticipo sono proprio il tempo ideale perché una canzone, diciamo, prenda l'abbrivio e lo mantenga. È già successo in diverse occasioni: Alexander Rybak nel 2009, Lorin nel 2012, Emily De Forest nel 2013. Si sono presentate, hanno fatto il botto alla loro selezione nazionale, i fan e il pubblico l'hanno adottata e poi dopodiché sono riusciti a mantenere la testa dei pronostici fino alla finale, anche perché quando arrivi da favorito anche lo show è costruito su di te. Sei certo, messo nel punto sì. Della scaletta dove il pubblico è maggiore, hai più interviste, ti intervistano di più, finisci a essere magari rappresentato nelle televisioni, nei documentari delle televisioni svedesi, estone, norvegesi, finlandesi, inglesi, e quindi è tutta pubblicità, non arrivi lì, fai 3 minuti e è finito. Considera che sono 200 milioni di ascoltatori, 190 milioni lo vedono per la prima volta in quei 3 minuti. Certo. Allora, ha solo un difetto Francesco Gabbani, adesso ve lo faccio sentire, l'ha tirato fuori Nemo, una trasmissione molto carina su Rai 2. Ecco qual è il difetto di Francesco Gabbani: non parla neanche un po' il tedesco. Noi abbiamo scelto per te il tedesco. Il tedesco, quindi si chiamerà Occidentalis Wustel. Sein oder sein müssen, der Zeifel Hamlet. So go ger fring fin smatch den just trei zen in deinem zen fur trei mach ein Beckham intellettua che nende caffè e interpretender non capisco, non ce la può fare. Daniele, tu come stai messo a tedesco? Pessimo. Mi hanno tedesco fatto fare proprio... questo karaoke tedesco proprio. Però è molto simpatico. No, lui è veramente molto simpatico. Molto bene. No, ma è un bel personaggio, canta bene, un bravo musicista. Poi c'è anche sì, la scimmia Kiev, ha detto. C'è la scimmia? L'hai incontrata? Eddie c'è? Possiamo stare tranquilli? Non avevo ancora l'abito da supereroe. Ah no, era Ronaldo. La... Oggi entro nella cabina del telefono ed esce la scimmia. Fantastico. Ragazzi, allora, Daniele, sei pronto? Sei pronto? Io sono a guardare e a twittare guardare... escita. Mamma, c'è già l'hashtag, immagino. Ma sì, allora poi martedì prima semifinale, giovedì prima semifinale, vanno anche in TV su Rai 4 e poi invece sabato sera su Rai 1 la grande finale. Sabato sera su Rai 1. In gara sì, quest'anno sì, che è Federico Russo insieme a Flavio Insinna, che hanno fatto anche uno spot molto molto molto carino con una sorta di Francesco Gabbani Rocky che si allena per... Io nel mio bagno come Rocky la foto del cantante bulgaro e del cantante portoghese sullo specchio. Ah ok, per gli avversari, ok. Come Bulgaria Rocky, e Portogallo. Io ho il bulgaro e il portoghese. Perché si sanno già specchio, anche gli altri favoriti. E eh beh sì, perché i bookmaker Bulgaria, già Portogallo. I bookmaker pullulano qua, Team Gabbani. Grazie Eddie, sono molto contenta. Aspettami, preparo tutto, anche gli antistaminici. Grazie a Eddie Anselmi, vice capo delegazione dell'Italia per l'Eurovision Song Contest in diretta da Kiev. Ciao Eddie. Un saluto a te e a Daniele e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Tube. Ciao. Ciao. Pausa, hai preso appunti, hai studiato. Dopo riascoltiamo Gabbani, no? Perché l'abbiamo ascoltato. No, abbiamo un sacco di argomenti anche belli tosti. Andiamo all'estero. Sì, andiamo all'estero. Stiamo all'estero, come per Kiev. Ciao. Tra pochissimo. YouTube. E rieccoci insieme, abbiamo parlato di argomenti sorridenti, come diciamo noi, un po' pop. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato di Eurovision Song Contest. Tra l'altro non abbiamo parlato delle polemiche, la Russia che se n'è andata, che non partecipa. Ci siamo proprio divertiti. Adesso però dobbiamo aprire un capitolo importante, Daniele. Abbiamo deciso di parlare di un argomento di cui non si è parlato per troppo tempo, vero? Brava, hai detto tutto tu, cioè abbiamo deciso di parlarne perché in una trasmissione che di solito si occupa anche di altro, perché arrivano delle immagini importanti e complicate da un paese grande come il Venezuela, di cui ci siamo già, occupati in passato. E a parte alcune belle storie, per esempio ieri su Repubblica c'era un lunghissimo racconto di Omero Chai, non è tanto passato sulla stampa italiana, la politica sembra disinteressata, eppure è un paese importante, grande, con degli interessi economici in ballo da molti punti di vista, e quindi il fatto che ci sia una protesta così importante, così popolare in un paese come questo e che passi quasi sotto silenzio è un po' preoccupante. A mio modo di vedere c'è anche il fatto che il Venezuela nel corso degli anni di Chavez e dopo era un po' un ultimo modello di una forma di socialismo che a una parte della sinistra europea piaceva tanto, e quindi siccome sta finendo in questo modo la politica europea in generale e in parte anche in Italia non ne vuole troppo parlare, perché è come fosse un non lieto fine che non si aspettavano in molti. Sono molto d'accordo con la tua lettura e penso anche che forse qualcuno aveva cercato di vedere in Chavez quello che avrebbe voluto vedere, ma forse quello che non era realmente. Non lo so, pensa, io sono, esatto, sono molto coinvolta perché io amo moltissimo il Venezuela, lo posso dire, una parte della mia famiglia alla quale sono molto affezionata, e quindi noi torniamo a collegarci, l'abbiamo fatto tempo fa, ma lo facciamo di nuovo con una collega giornalista che vive in Italia. Io lo affermo perché non voglio pensare che di nascondere dei conflitti di interesse, ma davvero noi siamo legate da un'amicizia familiare di generazioni, quindi noi ci conosciamo da sempre. Lei è venezuelana, è giornalista, ma vive in Italia da qualche tempo, è tornata nella regione dei suoi nonni, che è il Piemonte. Ci colleghiamo e la ringrazio molto con Clara Martinez Turco. Ciao Clara. Ciao, grazie Daniele, grazie Marta per l'invito di poter parlare di quello che sta succedendo in Venezuela, perché in effetti quando parlo con colleghi e amici la domanda è sempre: perché non se ne parla in Italia? Ecco, ecco, allora noi abbiamo cercato più volte di capire e di far capire, perché appunto a volte a me capitava, Clara, di parlare con te, di parlare con i tuoi genitori, con tua mamma, e di sentire delle cose che sui giornali italiani io vedevo presentate in maniera completamente diversa. Ed è come se ci fosse stata un'improvvisa epifania in Italia sulla situazione venezuelana. A te che sensazione ha dato? Diciamo che le proteste, soprattutto degli ultimi giorni, hanno fatto sì che le immagini parlino per se stesse. Cioè, penso che a quest'ora abbiamo tutti visto le immagini del ragazzo che ha preso fuoco e, diciamo, i carri armati che passano sui manifestanti. Però queste proteste vanno avanti dal 4 aprile, cioè un mese di proteste nel quali in Italia non si è proprio parlato per niente. Ed è un po' una cosa che non so spiegare tuttora, vista la quantità di italiani che ci sono in Venezuela, comunque italo-venezuelani, cioè stiamo parlando di 1,5 milioni di persone in un paese di 25 milioni di abitanti. Ecco, 1,5 milioni di persone su 25 milioni di abitanti è veramente tantissimo, davvero tanto. Daniele? E tra l'altro in questo racconto mancato c'è anche il fatto che sembra, come dire, una... si ha la percezione che sia una protesta piccola, cosa che invece non è, e soprattutto sembra che sia una protesta di una parte contro un'altra parte. Invece le ultime notizie dicono che è il regime nel suo complesso di Maduro che sta entrando in crisi, cioè, per dire, se non ho capito male, anche alti vertici della giustizia venezuelana hanno iniziato a dire che la repressione dell'amministrazione di Maduro ha valicato i limiti. Io sbaglio, Clara? Giusto, cioè, diciamo, quando c'era Chavez, le proteste che si vedevano erano opposizione verso il chavismo, ecco. E vedevi proprio due manifestazioni diverse. Adesso non è più così, cioè in queste manifestazioni dal 4 aprile ci sono i settori popolari tradizionalmente che supportavano il governo, che anche loro hanno iniziato a protestare perché la gente ha fame. Cioè, stiamo parlando di un paese che per il 2017 avrà un'inflazione del 720% secondo il Fondo Monetario Internazionale. Cioè non c'è, ecco, mangiare, non ci sono medicine. Ecco, questo secondo me è il punto, una delle ragioni per cui se ne parla poco, perché per anni è stato anche un po' raccontato che però la rivoluzione di Chavez aveva comunque aiutato dal punto di vista economico la popolazione venezuelana, le nazionalizzazioni, altre scelte di questo tipo, quando invece si vede dai racconti di oggi è evidente che era qualcosa di fondato non su fondamenta solide, e tanto è vero che sta venendo giù questa rappresentazione positiva, almeno dal punto di vista economico-sociale, dell'economia venezuelana. Purtroppo è proprio così. Ormai l'industria petroliera, che era la principale fonte di soldi per il governo, non va più avanti. Ormai sono un sacco di anni che c'è stata una depurazione delle persone che lavoravano lì, che aveva iniziato Chavez. Diciamo, le aziende non producono più, e le immagini, che purtroppo quelle non arrivano in Italia, però chi guarda i social, che adesso sono proprio dove si può vedere cosa sta succedendo, parlano di gente che va a cercare nella spazzatura cosa mangiare. Evidentemente il modello del governo venezuelano non funziona. Clara, lo dobbiamo dire, il Venezuela è un paese ricchissimo di risorse naturali, cioè un paese potenzialmente ricchissimo. Potenzialmente, perché, diciamo, tutta la parte produttiva non funziona più. In più non ci sono dollari, perché il governo controlla i dollari, perciò non si possono comprare né materia prima, e un po' il cane che si morde la coda. Come se ne può uscire? Cioè, quali possibili soluzioni ci sono alle viste per i racconti che tu senti dei tuoi parenti, dei tuoi amici dal Venezuela? Guarda, in questo momento anche diversi colleghi non sanno dire qual è la soluzione, perché stiamo proprio parlando di una situazione dove hai un governo che non vuole ascoltare, che ha tolto l'immunità parlamentaria ai deputati, non vuole convocare elezioni, e in più ha deciso dal 1° maggio che chiamerà a una costituente, senza però chiamare elezioni, cioè una situazione molto strana, dove veramente non si sa. Cioè adesso iniziano a parlare tanto di più persone che appoggiano il governo, però qual è la soluzione quando c'è una repressione fortissima su queste manifestazioni? Mi piacerebbe avere la risposta, ma non ce l'ho. Clara, e tu ce l'hanno le persone che, certo, che sono lì. Tu hai studiato giornalismo anche negli Stati Uniti, ma hai iniziato a lavorare in Venezuela. Ti metti in contatto con i tuoi colleghi venezuelani? Cosa ti raccontano? Sono disperati perché ormai non ci sono più i media dove lavorare, cioè il giornale per il quale lavoravo è stato acquisito, non si sa da chi, e hanno dato l'ordine espressa negli ultimi giorni di non pubblicare informazioni sulle manifestazioni, e sono molto preoccupati perché gli outlet in Venezuela sono veramente pochi. Per fortuna i social aiutano e riescono a dare avanti delle informazioni, però informazioni ufficiali non ci sono. Io vedo che tu sul tuo account di Twitter, che consiglio a tutti di seguire perché raccogli anche molte informazioni che arrivano e che ti arrivano di prima mano, Clara Martinez T, seguite Clara perché su Twitter cerca appunto di raccontare in tempo reale, raccogliendo tutte le fonti che le arrivano dal Venezuela e dagli Stati Uniti. Ho visto che hai condiviso molti Periscope, molte immagini da Instagram, forse riusciamo a vedere cose che altrimenti non sarebbero uscite dai confini. Ma è proprio così, tanto che i politici che tradizionalmente facevano le conferenze stampa adesso ormai fanno solo ed esclusivamente Facebook Live, Periscope, Instagram Stories. Per esempio Enrique Capriles Radonski, che è un po' il politico più importante adesso dell'opposizione, tutti i giorni, sia su Instagram sia su Twitter, pubblica i video delle repressioni e di cosa sta succedendo. Perciò è importantissimo, fondamentale per capire cosa sta succedendo in Venezuela, seguire un po'. Io penso che il video più surreale che tu hai condiviso su Twitter è una scena del presidente che balla in televisione, perché la TV sta mandando delle immagini totalmente decontestualizzate e c'è il presidente che balla, e poi la persona che ha in mano il telefonino gira il telefonino verso la finestra e si vedono gli scontri per strada. Credo che sia un'immagine che racconta un po' tutto quello che sta succedendo, ecco. Sì, diciamo che è stato un video virale, io non ci potevo credere quando l'ho visto, però purtroppo è così, anche perché quelle scene del presidente che balla in televisione nazionale non facevano neanche vedere cosa stava veramente succedendo. E come questi video ce ne sono tantissimi, cioè a Caracas c'è questo fiume, il Guaire è molto molto contaminato, ma che quando, per esempio, mia nonna era bambina, si poteva fare il bagno. Durante una di queste manifestazioni hanno talmente, cioè i corpi di sicurezza hanno talmente sparato lacrimogeni che la gente dalla disperazione si è buttata su questo fiume. Ma il problema della stampa mi pare che l'abbia raccontato molto bene, perché appunto ci sono stati anche dei giornalisti che sono stati interpretati un po' come dire, non vorrei dire la parola leader delle proteste perché per un giornalista magari è complicato, però insomma è questo si è visto come almeno in parte i social network possono dare la possibilità di svolgere anche una professione invece che soltanto pensarli come luogo di svago o dove si dice la propria ma senza un senso compiuto, a persone che non erano più in grado di farlo con altri mezzi. Questo io penso che traspaia moltissimo guardando le timeline di chi si occupa di questi argomenti. Giusto, anche perché tutte queste immagini e video che adesso vediamo in Italia sono tutte state pubblicate prima sui social anche da chi fa come mestiere giornalisti. Certo. Cioè queste immagini che avete visto sono state prima pubblicate su Instagram e poi le hanno mandate a Agence France-Presse, Associated Press, eccetera. Allora, io grazie, ringrazio Clara. Davvero tanto Clara, perché non è facile parlare di questi argomenti, appunto, anche quando sei giornalista, però quando ci sei dentro è sì, difficile dividere le due anime che sono in te, insomma, il fatto di essere giornalista ma il fatto anche di essere venezuelana. Un grazie. Grande abbraccio, ciao. Grazie a Clara Martinez Turco. Allora, @ Clara Martinez T, seguitela perché perché è davvero importante. Grazie Clara, un abbraccio forte. Grazie a voi. E adesso direi traffico. Traffico e poi torniamo a parlare ancora di esteri, tra poco. Radio Tube. Daniele è pronto a parlare ancora di esteri, però... però già mi rispondi oui? Ok, sì. Perché questa volta, dopo la drammatica pagina del Venezuela, ci trasferiamo in Francia. Sì, che è più tranquillo, ma insomma... Vabbè, insomma, più tranquillo, perché insomma, qua siamo nella democrazia. Se le sono date. Sì, sì, però beh, qua certo, siamo nella democrazia. Allora, ci sono dei candidati. Sì, e tu mi hai mandato un video molto... No, ma volevo farli sentire tutti io. Ah, torniamo a quando erano tutti i candidati, esatto. E anche quando erano più giovani. Sentiamolo qua, sentiamolo. Donc moi c'est François et je voudrais qu'on travaille plus pour avoir les meilleures notes de CM de toute l'école. Ok, moi c'est Jean-Luc et François il dit n'importe quoi. Il y a trop de devoirs, donc je dis vive la récré. Ouais. Moi c'est Benoît, je trouve qu'il y a trop de devoirs aussi et donc pas assez de récré. Monsieur, Benoît il copie sur moi. C'est vrai. Qu'avez-vous les enfants, hein, Marine? Alors moi je propose qu'on favorise notre classe, les CM2A par rapport aux autres CM2, parce que je les aime pas. Allora, capito. Per François, allora François dice dobbiamo lavorare di più per avere dei voti più belli. Jean-Luc diceva no, più ricreazione. Giusto. Poi c'era Benoît che diceva no, c'è troppo poca ricreazione, però più moderato. Più e moderato. Poi c'è invece Marine diceva noi non vogliamo quelli delle altre classi prima la nostra classe perché gli altri a me non piacciono. Un video molto, molto carino, molto chiaro, ripreso da Elle Francia, che ha scovato Daniele per insomma parlare un po' di questa vigilia di elezioni. Dei bambini che imitavano i candidati, quelli del primo turno. Esatto, esatto. Mosse, adesso ne sono rimasti due. C'era un però, bambino con i gli sopracciglioni come Fillon, quindi sì. Ne sono rimasti due che non sono tanto bambini, anche se uno è giovane, più giovane di noi, quindi Marta vedi un po' sì. Tu sì. E non so se è più giovane del nostro ospite però No, secondo me no. Vabbè, allora ci colleghiamo subito con Parigi con l'inviato di Radio 24, Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Marta, ciao Daniele. Bonsoir, ciao. Bonsoir. Allora, com'è questa vigilia? Adesso ti stavo per chiedere chi vince, no? Però no. Magari questo non si può chiedere, non si può sapere chi una vince. Una vigilia animata, dal dibattito in poi molto animata. Assolutamente, molto animata. Vedere il dibattito mercoledì sera è stato incredibile. Non ho mai visto tirarsi gli stracci, lanciarsi gli stracci come si è visto mercoledì sera, una Francia è poi rimasta anche sotto shock. Posso solo dire che insomma, si preparano i festeggiamenti, non si può dirlo, non lo si può dire perché poi alla fine potrebbe portare male, ma al Louvre per Emmanuel Macron, che dopo aversi visto rifiutare la Tour Eiffel e i giardini del Trocadéro, ha deciso di andare all'Esplanade du Louvre. Tra l'altro la cosa interessante è che è esattamente equidistante tra Concorde, che è la piazza storica della destra, e la Bastiglia, che è la piazza storica della sinistra, no? In questo cerca di essere al centro. Senti Sergio, bisogna sempre fare una scommessa quando si è inviato e se sei da solo devi scegliere dove seguirla, dove vai? Esatto. Dove vai? È abbastanza facile, nel senso che i sondaggi... Ora, abbiamo visto di tutto l'anno scorso, ok? Però stavolta non abbiamo il sistema americano, non si vota per regioni, quindi diciamo che a meno di clamorose novità... Non c'è la Brexit. Esatto. non c'è la Frexit. Sapere dove andare. Però penso Macron sia la scelta abbastanza obbligata, anche perché Front National mi ha già detto che non ci vuole, quindi... Ah, non, persone non grate? Scoop. Siamo persone non grate, sino tre spazi troppo limitati e quindi non c'è spazio per noi, quindi alla fine. Forse siamo stranieri e non siamo abbastanza simpatici. Ma dai, urca. Sergio, toglimi una curiosità, io mi sono fatto un'idea. Una delle cose che non aveva tanto Macron prima del primo turno era, non so, la cazzimma, il cuore, la pancia. Secondo me la Le Pen ha fatto un errore imperdonabile in questi ultimi giorni, attaccandolo nel dibattito ha tirato fuori quella parte di Macron che ancora non si era vista. Siamo in radio in fascia protetta, non si può dire quella parola lì, però insomma il concetto, la pancia, il cuore, oppure insomma ha tirato fuori gli attributi, altre ecco. Parti del corpo. No, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Diciamo il Macron inclusivo, aperto al mondo, anche pacione, che si vedeva nei comizi, è diventato un Macron molto arrabbiato, capace di rispondere nel merito, qualcuno ha detto presidenziale, in certi momenti forse lo è stato meno proprio perché ha tirato fuori, come dicevi tu, gli attributi proprio per rispondere. E poi c'è stato quel momento anche abbastanza surreale in cui la Le Pen ha detto non faccia il professore, io non sono l'allieva, e sembrava quasi, no, ricordare il, o volutamente ricordare il rapporto con la professoressa Brigitte, ora sua moglie, no? A ruoli invertiti. Però diciamo che sicuramente non è stato lo studente buono, educato, quando c'è voluto ha risposto nel merito, e anzi non le ha mandate a dire, questo è vero. Poi c'è stato anche questo video virale molto carino. Pare che, insomma, sovrapponendo un discorso di Marine Le Pen a un discorso di François Fillon, era proprio uguale. C'erano certe parti che, insomma, un filino si sovrapponevano. Se l'è giocata bene, secondo te, Marine Le Pen, o qualcosa ha sbagliato? Dopotutto, pur da non favorita, si è giocata davvero il tutto per tutto, anche con una certa virulenza. Guarda, si è giocata il tutto per tutto, ed era anche partita secondo me abbastanza bene dopo il primo turno, perché mentre Macron ha ceduto un po' troppo nei festeggiamenti e si è rilassato, il lunedì dopo è scomparso dai radar, si parlò solo della sua cena con i suoi sostenitori eccetera nel ristorante di lusso, lei era già invece tra i mercati, tra la gente, e poi ci fu anche quell'episodio alla Whirlpool di Amiens quando lei andò un clamoroso sgambetto, andò a incontrare gli operai mentre lui era riunito con i sindacati e col comitato d'impresa, e poi lui venne fischiato, no? Partì bene, però questa settimana devo dire Le Pen ha infilato effettivamente un errore dopo l'altro, perché è vero, copiare un discorso di un candidato di destra per cercare, insomma, di attirare i suoi elettori può anche starci, ma è stato talmente clamoroso che ha fatto la figura, insomma, di quella che copia i discorsi degli altri, che non è capace di fare i suoi, cosa che poi è venuta fuori anche nel dibattito, quando sinceramente era imbarazzante vedere Marine Le Pen con tutti questi dossier, sembrava la studentessa all'esame che non aveva studiato, che apriva il dossier per cercare una pezza d'appoggio, fino alle uova tirate poi in Bretagna a giovedì, mentre Macron al contrario era ripartito male, ma poi è riuscito invece a recuperare. Intanto ricordiamo, Marta, che domani sera c'è uno speciale tostissimo, c'è uno speciale tostissimo dalle 19 alle 21. Sergio, ovviamente tu telefoni carichi queste cose, perché ricariche anche il sito, dopo le batterie anche... ancora non sono granché, ma speriamo di farlo. Esatto, batterie esterne, perché poi anche queste cose contano quando uno fa l'inviato, mica poco, ragazzi. Barrette energetiche, .com, sole24ore.com, speciale fino alla chiusura, e poi lunedì mattina newsletter tutta dedicata alle elezioni francesi in vista dell'apertura dei mercati, perché non dimentichiamoci che adesso c'è questo clima tranquillo perché i sondaggi, perché la signora Le Pen ha commesso degli errori, in parte anche molto smussata la sua visione di ritiro della Francia dall'Europa, è diventata una cosa un po' diversa, partecipazione dei liberi stati, insomma, però insomma i mercati sono lì a guardare la Francia con una quala pressione comunque fino a lunedì mattina. Quindi giusto, in realtà, Sergio? Le elezioni finiranno lunedì mattina verso le 10, direi. Sì. O cominciano, non so, Sergio. Diciamo che se vince Macron va tutto bene, nel senso che le reazioni, insomma, è facile prevederle, i mercati forse hanno anche già scontato i rialzi nei giorni scorsi, però insomma non dovrebbero esserci grossi contraccolpi. È chiaro che una vittoria delle Pen sarebbe un ennesimo colpo dopo Trump, dopo la Brexit, sulla bara dell'Europa, adesso non voglio esagerare con i termini, però sarebbe un colpo durissimo, per cui diciamo che è veramente discriminante vedere chi vincerà. Io non faccio il tifo per nessuno, io sto a guardare i francesi, io sto a guardare quello che fanno. Non fai il tifo per nessuno, ecco, come Mélenchon che ha detto, no, in realtà prima aveva detto mai voterei la Le Pen, però non ha dato come dire indicazioni di voto per Macron. No, esatto, io non voterei mai per la Le Pen perché non mi piacciono tante cose, ma non condivido l'entusiasmo per Macron, non lo so. Sei scettica. Sono macron scettica. Macron Shed, io meno direi, io un po' meno. Tu, ma infatti, ma sarà, ma perché mai fatto una testa con sto Macron? Sai che, sai che un collega giornalista, Mario Lavia, ha scritto su Twitter, già, vedi che te l'avevo detto, è un problema di naso lungo. Ma ti pare che lui è un sostenitore di Macron per della prima ora? Perché gli dicono che assomiglia a Macron. Ma non è per questo, stempiature e naso lungo ne hanno in tanti. E gli occhi azzurri, diciamole tutte. Vabbè, grazie. Sergio. Però non è un buon argomento politico. Per niente. Appunto, capisci perché io poi divento Macron scettica, perché questa cosa. Ti invidiamo comunque, goditi le lezioni. Mangia anche una baguette lavoro. E un croissant e un pain au chocolat e tutte quelle cose buone che tra una cosa e l'altra magari riuscirai a mangiare a Parigi. Grazie, sarà Sergio. Grazie a voi. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Allora, Daniele, mamma mia, concludiamo quanti... in francese la puntata. No, pour dai. Pourquoi pas? Je suis Catherine Deneuve. Finito lì. No, qualcos'altro. Ogni soir qui mal y pense. Oh, addirittura la giarrettiera. Ma sai che quella è la frase che mi resta sempre impressa. È un po' come il motto, la cosa che vorrei scritta lì, si può dire? Sì, l'epitaffio. L'epitaffio che vorrei sulla mia tomba. Sia vituperato colui che pensa male. Ogni soir qui mal y pense. Fantastico. Allora, Daniele. Sì. Appuntamento con sabato prossimo, col sabato del villaggio, sempre alle 15, con RadioTube sempre alle 17. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, Cristian Goldoni soprattutto per la sua pazienza, oltre che per il suo lavoro. Al prossimo sabato, ciao!